Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Il giovedì, quando la famiglia, circondata dalle immagini degli dèi pacatamente sorridenti di sulla tappezzeria, era raccolta a tavola, la conversazione si aggirava da qualche tempo su un argomento nuovo e molto serio che sul viso delle signore Buddenbrock della Via Larga provocava un'espressione di freddo riserbo, nei gesti invece della signora Permaneder un'insolita eccitazione. Ella parlava buttando indietro la testa e tendendo le braccia o davanti a sé o verso l'alto, con ira, con indignazione, con sincera e profonda ribellione. Quando poi il direttore Hugo Weinschenk, in ritardo come al solito perché sovraccarico di affari, entrava nella sala e, bilanciando i pugni e dondolandosi sulla vita con insolita vivacità, andava a prendere il suo posto, mentre il labbro inferiore gli pendeva di sotto i baffi sottili con un'aria ardita, la conversazione ammutoliva. Un silenzio penoso e pesante si stendeva sopra la tavola, finché il senatore cavava tutti d'impaccio chiedendo al direttore come stavano le cose, e lo chiedeva in tono indifferente, come si trattasse d'un affare qualunque. Weinschenk rispondeva che le cose stavano benissimo, che non poteva non essere così, dopodiché cambiava discorso allegramente. Che cosa era successo con il direttore Weinschenk? Quell'uomo serio, attivo e vigoroso, alieno dalla vita di società, quell'uomo dalla scorza ruvida, tenace e fedele ai suoi doveri, dedito soltanto al lavoro, quell'uomo si era reso colpevole, così si diceva, non una volta sola, ma più volte, d'una grave infrazione. Era accusato di aver eseguito in varie riprese certe manovre che non si potevano dire soltanto equivoche, ma addirittura losche e delittuose, e contro di lui si stava istruendo un processo del quale non si poteva prevedere l'esito. Di che cosa era imputato? In vari luoghi erano scoppiati incendi, incendi piuttosto gravi che dovevano costare somme cospicue alla società assicuratrice. Ora il direttore Weinschenk, avvertito rapidamente e in confidenza dai suoi agenti, dunque commettendo una truffa cosciente, aveva provveduto a riassicurare i colpiti presso un'altra società alla quale così spettava la liquidazione dei danni. E ora la cosa era nelle mani del giudice istruttore, il dottor Mauritius Hagenström. «Thomas», disse la vecchia signora a quattr'occhi, «senti, io non ne capisco niente. Che cosa devo pensare di questa faccenda?» Ed egli rispose, «Ecco, mamma, che cosa vuoi che ti dica? Sarebbe un guaio per Erika se accadesse una disgrazia. Ma chi mi fa più pena è Tony. È una faccenda che ci riguarda tutti, e l'esito vergognoso colpirebbe tutti noi, perché Weinschenk fa parte della famiglia e mangia al nostro desco. Per me, io me la cavo. So come devo comportarmi. In pubblico devo apparire del tutto estraneo. Non devo assistere al dibattimento, benché mi interesserebbe di sentire Breslauer, e non devo occuparmi di nulla, non fosse altro per salvarmi dal rimprovero di volere in qualche modo influire. Tony, invece, non so immaginare quanto sarebbe triste per lei una condanna. Basta sentire l'angoscia che trema nelle sue proteste rumorose contro le calunnie e gli intrighi degli invidiosi. L'angoscia di dover perdere, dopo tutte le sciagure che ha avuto, anche quest'ultima posizione onorata, la pace familiare della sua figliola. Ma vedrai che proclamerà sempre più forte l'innocenza di Weinschenk, via via che sarà costretta a dubitarne. Certo, egli può anche essere innocente, del tutto innocente. Dobbiamo aspettare, mamma, e trattare con molto tatto lui e Tony e Erika. Ma non ho buoni presentimenti. La signora Permaneder passava per la via larga e camminava in fretta. Non aveva una bella cera. Il labbro superiore, quel labbro arcuato e un po' prominente che a suo tempo aveva tanto contribuito ad abbellirle il viso, ora tremava. I suoi occhi erano paurosamente dilatati e guardavano avanti quasi a tentoni, con battiti esaltati. I capelli le sbucavano in disordine di sotto il cappuccio e tutto il viso aveva quella tinta giallognola che assumeva quando il suo stomaco peggiorava. In quel periodo stava male, infatti. Il giovedì tutta la famiglia poteva notare il peggioramento. Per quanto si cercasse di evitare lo scoglio, la conversazione cadeva sempre sul processo di Hugo Weinschenk. Arrivata all'angolo della Fischergrube, la signora Permaneder vi si inoltrò scendendo di corsa per la via scoscesa fino alla casa di suo fratello. Dopo aver bussato, entrò frettolosa nell'atrio e di lì nell'ufficio, cercò al di sopra delle scrivanie il posto del senatore presso la finestra e assunse un aspetto così supplichevole che Thomas depose subito la penna e le andò incontro. «Che c'è?» domandò sollevando un sopracciglio. «Scusa, Thomas, un momento, una cosa urgente, non si può rimandare». Egli aprì la porta imbottita del suo ufficio privato, la richiuse quando furono entrati e guardò sua sorella con aria interrogativa. «Tom», disse lei con voce tremante e torcendosi le mani dentro il manicotto, «devi prestarci, esporre provvisoriamente, vedi, bisogna versare la cauzione. Noi non li abbiamo. Dove dovremo prendere ora 25.000 marchi? Ti saranno restituiti interamente, oh, fin troppo presto. Tu capisci, è successo che, insomma, il processo è giunto al punto che Hagenström ha proposto l'arresto immediato o il versamento di una cauzione di 25.000 marchi. Weinschenk ti dà la sua parola d'onore che rimarrà qui sul posto». «Siamo dunque arrivati a questo punto», fece il senatore scotendo il capo. «Sì, sono arrivati a questo quei furfanti, quei miserabili». E con un singhiozzo di rabbia impotente, la signora Permaneder si lasciò cadere sulla sedia rivestita di tela incerata che stava accanto a lei. «E andranno anche più in là, Tom. Arriveranno sino in fondo». «Tony», disse lui sedendosi davanti alla scrivania di Mogano, accavallando le gambe e reggendosi la fronte con una mano, «dimmi sinceramente, credi ancora che sia innocente?» Ella singhiozzò un paio di volte e rispose disperata con voce sommessa. «Oh no, Tom, come potrei crederlo? Proprio io che ho dovuto sopportare tante sciagure. Tutto è fallito. Tutto ciò che ho intrapreso si è tramutato in disgrazia. E Dio sa se le mie intenzioni erano buone. Ho sempre desiderato vivamente di arrivare a essere qualcosa nella vita e di farmi onore. Adesso crolla anche questo. Siamo dunque alla fine, all'ultimo». E, appoggiata al braccio col quale egli per calmarla le aveva cinto la vita, pianse sulla sua vita mancata, nella quale si erano ormai spente le ultime speranze. Una settimana dopo, il direttore Hugo Weinschenk veniva condannato a 3 anni e mezzo di prigione e arrestato immediatamente. Seguendo i due dottori, il vecchio Grabov e il giovane Langhals, un membro della famiglia Langhals che esercitava la professione in città da circa un anno, il senatore Buddenbrock uscì dalla camera dal letto della vecchia signora, passò nel tinello e chiuse la porta. «Loro comprenderanno la mia ansia. Si accomodino. Mi tranquillizzino, se è possibile». «Verdiana, mio caro senatore», rispose il dottor Grabov, «ma per il momento non c'è assolutamente alcun motivo di spaventarsi seriamente. Ah, mi faccia il piacere, una paziente della capacità di resistenza della nostra venerata signora. In fede mia, come medico di casa, io la conosco, quella capacità di resistenza. Stupefacente per la sua età. E io dico...» «Già, appunto, per la sua età», fece il senatore irrequieto e torcendosi la punta di un baffo. «Ben inteso, non affermerò che la sua signora mamma possa rimettersi a passeggiare domani mattina», continuò il dottor Grabov dolcemente. «Insomma, caro senatore, bisogna familiarizzarsi col fatto sgradevole che il polmone è lievemente intaccato». «Polmonite, dunque?» domandò il senatore guardando da un medico all'altro. «Eh sì», disse il dottor Langhals con un inchino severo e corretto. «Sì, diciamo pure una piccola polmonite destra», soggiunse il medico curante, «che dobbiamo cercare di localizzare attentamente». La vecchia signora richiedeva un servizio continuo. Quanto più le sue condizioni peggioravano, tanto più i suoi pensieri e tutto il suo interessamento si rivolgevano alla malattia che la seguiva con timore e con ingenua e palese ostilità. Lei, che un giorno era stata una donna di mondo, attaccata naturalmente e tenacemente alla vita comoda, aveva empito gli ultimi anni con opere di pietà e di beneficenza. Perché? Quella malattia, quella polmonite, si era insinuata nel suo corpo eretto senza che alcuna preparazione spirituale ne avesse facilitato l'opera di distruzione. Ma la vecchia signora sentiva benissimo che, nonostante la sua vita cristiana degli ultimi anni, non era affatto preparata alla morte ed era terrorizzata dal pensiero indistinto che, se quella doveva essere la sua ultima malattia, il male stesso doveva da solo infrangere la sua resistenza all'ultimo momento, con rapidità paurosa e fra tormenti fisici, provocando così la rinuncia di lei ad ogni lotta. Pregava molto, ma più ancora, quando era in sé, sorvegliava il proprio stato. Si tastava il polso, si misurava la temperatura, combatteva contro la tosse. Ma il polso andava male. La temperatura, dopo essere un po' calata, saliva ancora e la faceva passare dal tremito al delirio ardente. La tosse, che era accompagnata da dolori interni e le faceva espettorare sputi sanguigni, andava aumentando, e la difficoltà di respiro l'angosciava. Ormai era venuto il giorno in cui non si poteva più negare che la polmonite fosse doppia. Nella notte seguente, Gerda e suo marito si erano appena coricati, allorché la signora Permaneder li mandò a chiamare perché la malata era entrata in agonia. Verso le 4 la situazione andò peggiorando. L'inferma fu sorretta mentre le si asciugava il sudore dalla fronte. La respirazione parve venir meno e gli accessi di angoscia aumentavano. «Qualche cosa per dormire», riuscì a dire la malata. «Un sonnifero». Ma si era ben lontani dal concedere qualche cosa per dormire. All'improvviso riprese a rispondere, come aveva già fatto, a qualche cosa che gli altri non udivano. «Ah sì, Jan, non ancora molto». E poco dopo: «Sì, Clara, ora vengo». Alle 5 l'agonia non poteva essere più spaventevole. Verso le 5:30 subentrò un momento di calma. Poi, ad un tratto, quei lineamenti invecchiati e straziati dal dolore ebbero un guizzo, un'espressione di gioia atterrita, una tenerezza profonda, timida e scossa da brividi. Ella allargò le braccia fulmineamente con uno scatto così rapido e subitaneo da far intendere che fra ciò che aveva ascoltato e la sua risposta non c'era neanche lo spazio di un baleno. E con un'espressione di assoluta obbedienza, con una docilità amorevole e infinitamente remissiva, esclamò a voce alta: «Eccomi qua!» E spirò. Tony, suo fratello e la cognata entrarono nella camera per trattenersi un momento in silenzio tutti insieme accanto al letto, dopo che la signora Antonie ebbe sollevato il pannolino bianco dal viso della defunta. Questa aveva già indosso l'abito di seta col quale doveva essere esposta quel pomeriggio nel salone di sopra. Erano passate 48 ore dal suo estremo respiro. Ritornati nella stanza attigua, si accomodavano intorno alla tavola rotonda, mentre il senatore prendeva i fogli sui quali erano elencati gli oggetti che si dovevano distribuire fra gli eredi più prossimi. Nello stesso momento, Christian apriva la porta ed entrava. S'avanzò piuttosto rapidamente, chiuse la porta non senza far rumore e rimase lì aggrottando le sopracciglia, girando intorno i piccoli occhi infossati senza veder nessuno e aprendo e chiudendo con moto irrequieto le labbra sotto i baffi rossicci e folti. Pareva che fosse irritato e in certo qual modo sdegnato. «Ho saputo che eravate qui», disse in breve. «Se si deve discorrere della roba, devo pur essere avvertito anch'io». «Lo stavamo facendo», rispose il senatore con indifferenza. «Siedi pure». Christian ebbe alcuni mobili, un orologio da tavolino e persino l'armonio, e ne pareva soddisfatto. Ma quando si trattò di spartire l'argenteria, la biancheria e i vari servizi da tavola, incominciò a rivelare fra lo stupore di tutti una passione che quasi si sarebbe detta ingordigia. «E io?» domandava. «Vi prego di non dimenticarmi del tutto. Io non voglio denaro. Voglio biancheria e stoviglie». «Ma per farne che cosa, in nome del cielo?» E ora Christian diede una risposta, in seguito alla quale Gerda Buddenbrock si volse di scatto verso di lui e lo guardò con un'espressione enigmatica, mentre il senatore si toglieva gli occhiali e lo fissava sbalordito, e la signora Permaneder giungeva persino le mani. La sua risposta era questa: «Ecco, per farla breve, ho intenzione di prender moglie tosto o tardi. Agisco da uomo d'onore. Tu non sai come stanno esattamente le cose. Ci sono qui Tony e Gerda, non possiamo parlarne a nostro agio. Ma ti ho ben detto che ho degli obblighi. L'ultima bambina, la piccola Gisela...» Non so chi sia la piccola Gisela e non ne voglio sentir parlare. Sono convinto che ti ingannano. In ogni caso, però, verso una femmina come quella a cui pensi, non hai altri obblighi che quelli legali. E se vuoi, puoi continuare a osservarli. Femmina, Tom? Femmina? Tu ti sbagli sul suo conto. Aline, silenzio! Tuonò il senatore Buddenbrock. Ora i due fratelli si guardavano negli occhi, uno di qua e uno di là dalla tavola. Thomas pallido e tremante di collera, Christian spalancando gli occhietti tondi e incavati dalle palpebre improvvisamente arrossate e con la bocca aperta per lo sdegno. Aline ha messo da parte parecchio. Il senatore inghiottì la saliva e si dominò. Messo da parte. Tu pensi dunque di fondere l'eredità della mamma coi risparmi di costei? E poi intendi adottare i figli che ci sono o eventualmente legittimarli? Sicuro. Di maniera che dunque dopo la tua morte il tuo patrimonio passerebbe a quella gente. Mentre il senatore diceva così, la signora Permaneder gli poneva una mano sul braccio scongiurando sottovoce: Thomas, la mamma è di là. Sì, rispose Christian, bisogna pure fare così. Ebbene, tu non farai nulla di tutto ciò, esclamò il senatore alzandosi. Finché ci sarò io, ciò non avverrà, te lo giuro. Guardati, sta attento. Abbastanza denaro è andato perduto a causa di disgrazie, pazzie e azioni nefande, perché tu possa osare di buttare un quarto del patrimonio materno in grembo a cotesta femmina e ai suoi bastardi. Abbastanza hai fatto sfigurare la famiglia perché si debba ancora imparentarsi con una cortigiana e dare il nostro nome ai suoi figli. Te lo proibisco, hai capito? Te lo proibisco! Gridò con una voce che rintronò nella stanza. Stai attento, ti dico, non avrò più riguardi. Ti faccio interdire, ti faccio rinchiudere, ti riduco a zero, hai compreso bene? Christian, che già durante le ultime battute si era mosso qua e là per la stanza, sgomberò infine il campo di battaglia. «Va bene, la vedremo!» esclamò. E coi baffi arruffati, con gli occhi accesi, la giacca sbottonata, il fazzoletto nella mano abbandonata, esaltato e accaldato, uscì e richiuse la porta dietro di sé.